serata di mattina, carina, piccina. Poi la vidi all'imbrunire, salire sul tram. È graziosa, deliziosa, ma chi è? Non so. È una piccola bionda, bionda, bionda, col naso in su, dagli occhi blu. Non è grassa, ma è tonda, tonda, tonda. Ha un non so che piace a me, il suo nome ignoro, ma che mi fa quella donna d'oro, perché si sa. Piccola bionda, bionda, bionda, col naso in su, dagli occhi blu. L'ho rivista ma di sera, e altera, severa. Nel passarmi a svelta accanto, un guanto cascò. Lo raccolsi, glielo porsi, e lei via scappò. Oh mia piccola bionda, bionda, bionda, col naso in su, dagli occhi blu. Non sei grassa, ma tonda, tonda, tonda, col non so che piace a me, il tuo nome ignoro, ma che mi fa, sento fetta d'oro, perché si sa. Sei una piccola bionda, bionda, bionda, col naso in su, dagli occhi blu. La raggiunsi e la fermai, osai, parlai. Signorina, permettete, chi siete? Pardon, mi sorrise la piccina. Ed al fine parlo, io non so che una bionda, bionda, bionda, col naso in su, dagli occhi blu. Non son grassa, ma tonda, tonda, tonda, o non so che piace a te, il mio nome ignori, ma che ti fa, sento che m'adori, perché si sa. Son che una bionda, bionda, bionda, col naso in su, dagli occhi blu. Il mio nome ignori, ma che ti fa? Sento che m'adori, perché si sa. Che una bionda, bionda, bionda, col naso in su, dagli occhi blu.